Sprinkle Project. Liar. 00. Salty the production. È incredibile. È impossibile farlo piacere. Sono polvere. È incredibile. Comincia. È inutile zittir.